Questa è una vecchissima questione che divide il fronte degli editori, le associazioni degli editori, dalle associazioni dei bibliotecari e da una buona parte anche degli autori. È un dibattito aperto che per esempio ha diviso per 7 anni la Francia prima che si arrivasse alla legge che attualmente è in vigore e che prevede una remunerazione del diritto d'autore per i prestiti in biblioteca, però a carico quasi interamente del bilancio dello Stato, diciamo. I dati statistici dimostrano il contrario, cioè dimostrano che il libro preso in prestito in biblioteca non è un libro sottratto alla vendita in libreria. Non solo, ma che, come testimoniano numerose inchieste che sono state fatte tra utenti di biblioteca, si legge un libro in biblioteca per prenderne visione, per assaggiarlo, perché si deve studiare, perché ci si deve documentare, perché per tantissimi motivi, e quando il libro piace, quando il libro conquista, poi lo si compra anche in libreria, oppure lo si consiglia ad altre persone, quindi si mette in moto un meccanismo che incide anche sulle vendite. La campagna ha avuto una grande risposta, solo le adesioni sul sito sono arrivate in questo momento sul 2600 adesioni personali, ma la risposta in realtà va al di là di queste cifre, perché abbiamo tutti i giorni contatti con biblioteche che stanno organizzando iniziative, che ne stanno programmando e che ne faranno nei prossimi giorni, quindi la protesta è destinata ad assumere dimensioni ancora più grandi. Un particolare a cui ci teniamo abbastanza nella campagna, cioè quello di tenere legata la tematica che riguarda le biblioteche alla tematica generale della proprietà intellettuale e alla stretta che viene avanti sul tema della proprietà intellettuale, cioè c'è un legame molto sottile da un certo punto di vista, ma che se si analizza bene la questione viene alla luce con molta nettezza. Questo sito, che adesso si chiama www.nopago.org, che è il contenitore unificato di questa campagna, in cui stanno confluendo tutte le organizzazioni bibliotecarie e non bibliotecarie che si oppongono all'introduzione del prestito a pagamento, e su questo sito è possibile firmare l'adesione alla campagna, firmare una lettera al Presidente della Commissione europea che verrà inviata per chiedere la non applicazione di questa norma e quindi l'esonero delle biblioteche dalla remunerazione per il diritto d'autore, e poi sarà possibile anche firmare un appello di adesione alla campagna e infine trovare una serie di materiali di documentazione e di approfondimento che sono a disposizione sul sito.